Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Con voi come sempre Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria li anticipo subito. Come sempre parleremo di Telecom Italia, che oggi ha confermato alcune delle indiscrezioni già uscite, il calo dei ricavi, ma anche e soprattutto l'accantonamento di 597 milioni in un fondo rischi per la vicenda Sparkle. Ricorderete l'accusa anche della magistratura, aver creato con un carosello dei fondi neri, evasione fiscale. Poi c'è anche la parte che riguarda, sempre secondo le accuse della magistratura, il ruolo della criminalità organizzata, ma qui stiamo parlando della mancata IVA, del mancato pagamento IVA, e il fondo rischi creato da Telecom Italia è di 597 milioni di euro, anche se nel 2009 avrà un impatto per soli 10 milioni di euro. Comunque, oltre a Telecom, parleremo di prezzi delle materie prime. Di nuovo oggi in tensione i prezzi di alcune materie prime, anche se il petrolio non è ai massimi. Resta un alluminio a record dal 2008, restano previsioni che vedono, parallelamente alla ripresa economica asiatica e americana, un rialzo dei prezzi delle materie prime. Parleremo anche e riprenderemo per meglio dire il nostro viaggio nei vari distretti industriali del paese. Oggi sarà la volta di Bologna, poi toccheremo nel corso anche della prossima settimana il Nord-Est, visto che si aprirà il Festival della Città Impresa, un festival con cui il Nord-Est racconta se stesso. E parleremo oggi anche di un altro settore, perché domani apre il Salone del Mobile, molti di voi già lo sanno, un appuntamento importantissimo per quello che riguarda il settore del mobile arredo, come si chiama in gergo. È il settore in cui l'Italia è leader, il Salone del Mobile è a questo punto leader anche in Europa, devo dire, con 300.000 visitatori stimati, una cifra immensa. Pensate, visto che siamo reduci dal Vinitaly, che i Vinitaly, che pure è una manifestazione di grossa importanza a livello europeo e mondiale, non va oltre i 100.000 visitatori, che coinvolge l'intera città, ma soprattutto coinvolge uno dei quattro settori chiave della nostra economia quanto a export, appunto l'arredo, assieme all'alimentare e all'automazione e all'abbigliamento. Sono le quattro colonne importanti del nostro Made in Italy. Ne parleremo con chi organizza il Cosmit, anche qui il Salone del Mobile, anche qui grande capacità di un mondo molto parcellizzato e frammentato come quello di chi produce arredo in senso lato, di comunque riuscire a rappresentarsi, di fare rete, darsi una identità attraverso un evento, in questo caso il Salone. Poi la borsa, come sempre, mezzo punto percentuale oggi di calo su tutti i mercati, devo dire a Milano ma anche a Parigi e Francoforte, calo analogo anche a Londra. L'America perde lo 0,3%, l'euro ha leggermente ritracciato ma è di nuovo a 1,3540, quindi lontano dalle tensioni. Partiremo proprio dall'asta delle obbligazioni greche, che è andata bene. Non si può dire benissimo, ma sicuramente, visto il periodo, c'è stata una richiesta di poco ma superiore all'offerta, e questa è sicuramente una buona notizia per la Grecia e in generale per l'Unione Europea. Tra i titoli segnaliamo soprattutto il Monte dei Paschi più 5,5, Unipol più 1,6, l'1,5 lo guadagna Luxottica, l'1,3 Telecom, l'1,2 Bulgari e lo 0,70 anche Steamac Electronics, Pirelli e Buzzi Unicem. Tra chi più perde, Tenaris meno 2,30, Azimut meno 2, CIR meno 1,90 come Prismian e Exor, Fiat meno 1,7, l'Automatica meno 1,4, Saipem meno 1,2, Geox meno 1,1, A2A meno 1% come Snam, Rategas, Autogrill e Impregilo. Non mi resta che dare l'ultima cifra, il numero per i vostri sms, 349-238-6666. Partiamo sempre con le notizie in breve. Vedo già dei messaggi. Parleremo anche del settore orafo italiano, ci mancherebbe, lo facciamo anche ogni volta in occasione della fiera orafa di Vicenza, per esempio. Comunque andiamo avanti con le notizie di oggi. Petrolio 84 quasi, 83,6 dollari al barile, in leggero calo, adesso sarà il nostro tema di apertura. L'America, deficit commerciale sale a quasi 40 miliardi di dollari a febbraio, superiore anche alle attese degli analisti, ha aumentato il deficit commerciale americano del 7,5%, ossia l'America ha esportato meno di quanto abbia importato per una differenza appunto a febbraio di 39, di quasi 40 miliardi di dollari. L'asta delle obbligazioni greche, dei bot greci, venduti tutto il 1,2 miliardi di euro oggi offerto. La domanda era superiore all'offerta per circa 1,5 miliardi di domanda contro 1,2 miliardi di offerta. Però insomma, bene il collocamento, i rendimenti al 4,55% per i titoli a 26 settimane e il 4,85% per i titoli a un anno. Stiamo sempre parlando di rendimenti lordi all'anno su base annuale. Allora, ancora, la Grecia continuerà a finanziarsi sul mercato, lo ha dichiarato oggi il ministro delle finanze Giorgio Papakonstantinou, e quindi continuerà a utilizzare il mercato e userà la rete di sicurezza, i 30 miliardi europei più i 12 del Fondo Monetario, solo come appunto rete di sicurezza. Accelera l'inflazione in Germania, a marzo va all'1,2%, ai massimi da 16 mesi a questa parte, valeva la crescita dei prezzi al consumo lo 0,5% a febbraio, 1,2% a marzo, anche qui componente energetica, ma non solo. Spagna, in crescita la vendita di case a febbraio, più 18,7% nel mese di febbraio rispetto al stesso mese del 2009. Ora, anche qui i raffronti anno su anno devono sempre tenere in considerazione il crollo che c'era stato nel settore immobiliare in Spagna nel 2008. Insomma, le case erano calate per mesi del 20%, no? Ogni mese rispetto all'anno prima. E addirittura si arrivò all'aprile del 2002, quando il mercato della compravendita di case in Spagna crollò di quasi il 50% rispetto all'anno prima, del 46,7%. Veniamo ai conti italiani. Allora, non vanno bene le entrate fiscali. Nel periodo gennaio-febbraio le entrate sono infatti state pari a 56 miliardi 270 milioni di euro e qui c'è un calo di gettito fiscale di 800 milioni di euro, meno 1,4%. Pesa ancora la crisi, fa presente il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, ma visto che l'attuale congiuntura economica sembra orientata positivamente, da questo punto di vista il Ministero dell'Economia è abbastanza fiducioso sui dati futuri. Risultati positivi nella lotta all'evasione fiscale: nel periodo gennaio-febbraio gli incassi da ruoli relativi a attività di accertamento e controllo hanno registrato un incremento di quasi il 40%, più 39,6. Adesso arriviamo anche al rapporto sul Made in Italy, che mi serve poi per introdurre il tema della produzione industriale italiana. Di Telecom abbiamo detto, tra l'altro l'utile 2009, giustamente non l'ho citato, me lo ricordate, l'utile 2009 è calato a 1,5 miliardi per Telecom, il dividendo è a 5 centesimi di euro per il gruppo telefonico, ascolteremo anche altri interventi e analisi. È terminato invece, per quello che riguarda Unicredito, il CDA sulla banca unica. E su Unicredito, poi magari ve lo facciamo riascoltare, è tornato anche il neo presidente della regione Veneto, nonché tuttora ministro dell'agricoltura, Luca Zaia, che ha detto, è tornato a dire, come già fece in anteprima ai nostri microfoni 2 settimane fa: se il buongiorno si vede al mattino, la fiducia che ho avuto in Alessandro Profumo è ben riposta. Secondo Zaia è ideale anche il nuovo country manager designato da Unicredito in Gabriele Piccini. Ha detto Zaia: ringrazio Profumo per i tanti veneti inseriti nel consiglio di amministrazione, perché la banca più è local più ci piace. Sciopero al Fiat di Termini Imerese, per quello che riguarda lo sciopero al Fiat di Termini Imerese, gli operai si sono fermati alle 9.30 e hanno bloccato gli impianti fino alle 11.30, altre due ore sono in programma dalle 16.30, quindi da circa un'ora fa, alle 18.30, in contemporanea con la riunione al Ministero dello Sviluppo Economico tra governo, Fiat e sindacati per esaminare le proposte al vaglio di Invitalia, che è l'advisor incaricato di valutare i potenziali acquirenti della fabbrica che Fiat lascerà a fine del 2011, quella appunto di Termini Imerese. Partiamo allora dal primo tema: petrolio, materie prime, tensioni registrate da più parti. Devo dare un paio di precisazioni a chi scrive al 349-238-6666. Parleremo anche del distretto industriale tessile di Biella, tutto non si riesce a fare. Per quello che riguarda il Vinitaly, hanno detto semplicemente, a noi risulta che i visitatori siano stati intorno ai 100.000, c'è chi ci scrive che sono stati 140.000 con un biglietto costosissimo a 35-40 euro. Non cambia comunque il ragionamento, perché era un modo per dare le proporzioni del Salone del Mobile. Già Vinitaly è una fiera importantissima, il Salone del Mobile fa il doppio, quasi il triplo dei visitatori, a segnalare l'importanza anche più forte, più pesante del settore dell'abbigliamento, dell'arredo, del legno arredo, come si chiama in gergo. Primo tema, le materie prime. Allora, oggi è giornata di consigli, altri di voi vogliono sapere perché non parliamo del resto d'Italia. No, ne parliamo, parleremo anche dei distretti del centro Italia, parliamo spesso del sud e di quello che è un problema che attanaglia anche le imprese del sud, la criminalità, il modo per combatterla. Abbiamo fatto intere puntate di carattere economico su come far male alla criminalità. Comunque, accettiamo l'invito e torneremo anche a parlare di altri distretti industriali a partire da quelli del centro-sud del paese. Dicevamo, petrolio in calo a 83,6 dollari al barile, ma tra l'altro inizieranno domani in Parlamento italiano le audizioni per capire come mai la benzina sia arrivata quasi a 1,44 euro al litro. Domani sarà la volta del sottosegretario allo sviluppo economico con delega all'energia, Stefano Saglia, già intervenuto nel nostro programma più volte, e la prossima settimana sarà anche la volta del presidente dell'Unione Petrolifera, anche lui molte volte intervenuto, e mi riferisco a Pasquale De Vita. Questo nel giorno in cui si scopre che nei primi tre mesi del 2010 il prezzo di acquisto dell'energia elettrica, la borsa dell'energia, è sceso sotto i 63 dollari al megawatt, cioè siamo a un meno 17,7% rispetto a un anno fa come prezzo dell'energia. Sarebbe bello vedere lo stesso calo anche sulla bolletta elettrica, che non è che si può fare questo ragionamento solo quando c'è il petrolio di mezzo, vale anche per l'energia. Lo ha riferito appunto il gestore nel newsletter mensile, aggiungendo che sono anche tornati in terreno positivo gli acquisti nazionali di energia elettrica, più 2,8%, e cioè nel settentrione soprattutto si torna a consumare energia. Questo è sempre un indicatore indiretto di una ripresa dell'attività economica. Questi sono gli ultimi aggiornamenti, ma nelle ultime settimane le quotazioni di varie materie prime, mi riferisco soprattutto a quelle industriali, hanno toccato record pre-crisi. Record pre-crisi vale per il rame, ma non solo, e allora vogliamo parlarne. A chi ci chiede cosa c'entri Zaia con Unicredit, abbia la pazienza di attendere 40 minuti, gli diamo la risposta. C'entra come il ruolo delle fondazioni e delle regioni, è un ruolo che in questo momento sta rimettendo in discussione anche sui grandi gruppi bancari la gestione stessa dei grandi gruppi, e su questo la fondazione è spesso l'elemento più territoriale in questi gruppi bancari. Ne abbiamo parlato con Corrado Passera 2 settimane fa da Taormina, e anche con Carlo Frattapasini rispettivamente numero uno di Banca Intesa e presidente del Banco Popolare. Comunque, i prezzi delle materie prime. E allora grazie per averci raggiunto in collegamento l'ingegner Carlo Stagnaro, direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buonasera. Buonasera. Partiamo dal petrolio, anche se oggi, come dicevamo, è più tranquillo, siamo sempre a $83,6 al barile, ma in leggero calo. Abbiamo assistito a un più 24% nel prezzo del petrolio da inizio febbraio. Queste tensioni a livello di prezzo del petrolio, poi arriviamo alla benzina, secondo lei possono far prefigurare un ritorno di vere e proprie tensioni al rialzo come quelle che abbiamo visto nel 2008 e quindi un petrolio che rischia di ritornare a $100-150 al barile? Beh, fare delle cifre è sempre difficile e rischioso. La mia sensazione è che l'aumento a cui stiamo assistendo e quindi potenzialmente anche aumenti a cui potremo assistere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, possa incorporare una componente speculativa, ma sia spiegato soprattutto da una dinamica economica reale, che è quella a cui si aggrappa la speculazione stessa. In altre parole, il mondo sembra proiettato, seppure in modo diseguale, ancora un po' incerto, verso l'uscita dalla recessione. Uscire dalla recessione significa tornare a consumare più, a chiedere più energia e quindi più petrolio, e dunque significa tornare in una condizione non molto diversa dal punto di vista dei fondamentali rispetto a quella nella quale ci siamo trovati nel 2007-2008, cioè un'offerta sostanzialmente allineata alla domanda, con un basso margine tra domanda e offerta, e quindi una certa volatilità, una certa incertezza. Se questo possa portarci a 100 o addirittura a $150, è davvero difficile dirlo, dipende essenzialmente da due aspetti. Uno è la velocità con cui la domanda tornerà su quei livelli, l'altro è la rapidità con cui l'offerta saprà adeguarsi, cioè la rapidità con cui gli investimenti che sono stati cancellati a causa della crisi torneranno a materializzarsi, e naturalmente il fatto se essi riusciranno ad avere successo, cioè ad ampliare la produzione petrolifera oppure no. Sono evidentemente tanti aspetti incerti, ci sono tanti dubbi, e quindi è difficile esprimere una previsione con un grado di affidabilità ragionevole. Sicuramente la tendenza oggi nel medio termine mi sembra, se non verso un aumento, quantomeno verso una stabilizzazione dei prezzi a livelli attuali. Tenderei a non credere in una riduzione a breve. No, mi sembra che di riduzione o sulla riduzione nessuno si faccia illusioni. Volevo capire se, ripartendo la domanda e di nuovo con le tensioni strutturali, perché nel frattempo non è che in questi anni si siano fatti più investimenti in pozzi, in ricerca. Il petrolio era sceso fino a $38 durante la parte più dura della crisi, per cui questo ha frenato anche molti investimenti. Ecco, vorrei capire se ripartita a ciclo pieno l'economia, soprattutto quella asiatica, parliamoci chiaro, quella dei BRIC, senza la Russia forse, ecco, se in questo caso non ci ritroveremo con gli stessi problemi che abbiamo visto nel 2008-2007. Beh, potremmo trovarci in una situazione non molto diversa. Naturalmente c'è una differenza sostanziale che sta nel mondo americano. Gli Stati Uniti hanno ricevuto una sberla davvero significativa dalla crisi, e quindi, per quanto tornino a correre, questo, come dire, allunga i tempi e apre anche una finestra di opportunità per gli investimenti che sono stati cancellati a causa del crollo della domanda e quindi dei prezzi del petrolio, e che però potrebbero tornare almeno in parte a essere messi in pista, senza dimenticare che altri investimenti, soprattutto nel gas non convenzionale, eccetera, sono stati comunque fatti, e comunque della nuova capacità produttiva è stata creata come dire, nella coda della crescita economica, e quindi in qualche maniera la situazione ha comunque degli spiragli più ottimistici rispetto a quelli che si potevano intravedere nell'estate del 2008. Allora, questo per quello che riguarda il petrolio. Veniamo alla benzina e poi passiamo anche al resto delle materie prime, perché lei, se ho ben capito, ha sostenuto che al di là della polemica tra i consumatori che accusano le compagnie petrolifere di rialzi ingiustificati, e noi obiettivamente una benzina a 1,44 euro con un petrolio a 85 dollari, quando col petrolio a 150 dollari quasi la benzina era 1,52, continuiamo a non capire, allora, o era troppo basso allora o se no in termini di proporzione non ci tornano i conti. Però lei ha sostenuto che in realtà il vero motivo non si chiami né, diciamo così, speculazione dei petrolieri, ma tasse? Beh, sicuramente anzitutto sul rapporto tra prezzi della benzina e prezzi del petrolio è importante capire che il riferimento vero rispetto a cui valutare le variazioni nei prezzi dei carburanti non è il petrolio grezzo, noi non mettiamo il petrolio che esce dal pozzo nella nostra automobile, ma è il valore dei carburanti sui mercati internazionali. E gli aumenti italiani hanno rispecchiato sostanzialmente gli aumenti sui mercati internazionali. Ora, si può sostenere, anche se io non vedo grande evidenza, ma si può sostenere che ci sono fenomeni speculativi a livello internazionale che tirano su i prezzi dei carburanti. Mi sembra difficile sostenere che ci sia una peculiarità italiana nell'aumento, cioè nella variazione del prezzo dei carburanti. Altra cosa è il livello del prezzo dei carburanti, che è alto, che è molto alto in Italia, a prescindere dagli aumenti o dalle variazioni che hanno avuto nel breve termine. E la ragione principale per cui i prezzi sono oggettivamente alti, anche quando sono a 1,2 euro al litro, è che grossa parte di quello che noi paghiamo va ad alimentare la componente fiscale. Sì, non dimentichiamo un'altra cosa. Quando guardiamo anche le dinamiche della parte, diciamo, industriale, cioè non fiscale, del prezzo, le compagnie petrolifere hanno subito un aumento non irrilevante delle tasse che a loro volta devono pagare sui loro profitti. La cosiddetta Robin Hood Tax ha aggiunto 6,5 punti di aliquota IRES al conto economico delle compagnie petrolifere e di tutte le società attive nel settore dell'energia. Ora, è vero che nella lettera del decreto si diceva se c'è il divieto di traslare l'aumento fiscale sui prezzi finali, però è altrettanto evidente che le compagnie petrolifere, o perlomeno le unità di business attive nella distribuzione dei carburanti in Italia, delle compagnie petrolifere, stanno sperimentando un momento oggettivamente difficile. Io capirei una crisi, un attacco, se si osservassero dei margini superiori ai livelli storici e così via, ma quello che ci dicono i bilanci delle compagnie è che esse si trovano in sofferenza. I margini osservati nel 2010 sono molto al di sotto dei livelli registrati, dei livelli medi nel triennio precedente. No, quindi, è chiaro, però resto, ho capito che il prezzo con cui si fa il prezzo della benzina non è il prezzo del petrolio grezzo, ma quello del combustibile su base internazionale, valeva anche 2 anni fa, e ripeto, quando tu vedi un petrolio a 150 dollari al barile quasi e una benzina a 1,52 euro, se poi lo vedi a 80 dollari al barile, cioè quasi la metà, e la benzina è 1,44 euro, continuo a non capire. Detto, nel senso che secondo me c'è una certa vischiosità verso l'alto in questi prezzi. Detto ciò, volevo una sua ultima previsione sulle materie prime in generale, perché come ricordavamo la scorsa settimana il rame ha toccato i massimi da 20 mesi, sopra gli 8.000 dollari a tonnellata, è la quotazione più alta del 1 agosto del 2008. Questo anche va verso una direzione, secondo lei, di complessivo aumento delle materie prime, perlomeno quelle di carattere industriale, non le materie prime agricole magari? Sì, se posso permettermi solo un'ultima puntualizzazione su benzina e petrolio, non dimentichiamo che i 150 dollari sono stati raggiunti per pochi giorni e che il cambio euro-dollaro era all'epoca molto più favorevole all'euro di quanto non sia oggi, quindi se noi guardiamo ai prezzi medi mensili in euro probabilmente la differenza è meno clamorosa di come si potrebbe pensare altrimenti. Sulle materie prime in generale, a me pare di osservare la stessa dinamica largamente che si vede per il petrolio, cioè noi vediamo un fermento di mercato che dipende da un lato dai segnali oggettivi di ripresa che cominciano a esserci. L'ultimo outlook mensile sull'energia americana parla prevede una ripresa nei consumi di carburanti dopo il crollo dell'anno scorso negli Stati Uniti. E dall'altro, nelle previsioni comunque ottimistiche della maggior parte degli organismi internazionali sul fatto che il mondo tornerà a crescere. Se il mondo torna a crescere, soprattutto come diceva lei, nelle grandi economie emergenti dell'est, tornerà a crescere anche la domanda di tutte le materie prime, dal petrolio al rame a quello che si vuole. Quindi in questo senso io credo che sia ragionevole aspettarsi ulteriori aumenti. Per certi versi mi verrebbe da dire dovremmo augurarci ulteriori aumenti, perché questi sarebbero nell'attuale assetto del mercato la conseguenza di una maggiore crescita, quindi come dire, le due cose sono inestricabilmente legate, e se cresceremo dobbiamo aspettarci rincari delle materie prime, e io spero che torneremo a crescere. Sì, anche se dottor Stagnaro, potrebbe capitare nella peggiore delle ipotesi che i rincari delle materie prime siano dovuti a una crescita economica mondiale, ma non da noi, e cioè se cresce, continua a crescere la Cina, l'India, il Brasile e anche gli Stati Uniti, torna sul prezzo del rame, stagno, alluminio, metalli non ferrosi, petrolio, e noi la prendiamo, diciamo, male, perché cresciamo molto meno e però ci becchiamo i prezzi alti. Io la ringrazio, vedo che molti contestano la sua frase, insomma, sulle compagnie petrolifere che hanno avuto utili in calo. È vero che li hanno avuti in calo, quindi è vero che i margini si sono abbassati, è anche vero, e hanno ragione gli ascoltatori, che venivano da anni record di utili, quindi attenzione anche qui ai raffronti, un po' di calo ci poteva pure stare nelle compagnie petrolifere che venivano da anni di petrolio a 100, 110, 120, 130 dollari al barile. Grazie comunque a Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Poi volete sapere cosa è successo alla Robin Hood Tax? Non lo so nemmeno io, quindi ammetto tutta la mia ignoranza sulla tassa anticiclica. Vedremo cosa uscirà dalle audizioni parlamentari che iniziano domani sui prezzi della benzina. Speriamo non escano solo così delle rassicurazioni e valutazioni generali. Adesso meteo, pubblicità, poi la borsa, Unicredit, Zaia e Telecom. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di borsa e poi di Telecom Italia e anche di Unicredito, quindi notizie collegate alla borsa. Poi arriveremo ai distretti industriali e all'apertura domani del salone più importante per il settore del legno arredo. Allora, meno 0,4% Milano, meno 0,4% anche Parigi, meno 0,3% Francoforte, meno 0,2 Londra, meno 0,1 l'America in questo momento, euro vicino a quota 1,36, 1,3580. Bene il Monte dei Paschi, adesso citiamo i titoli. Devo dare però qualche aggiornamento di notizie appena battute dalle agenzie. Allora, il Fondo Monetario Internazionale ha migliorato, per fortuna, le stime del costo della crisi finanziaria per il sistema bancario delle aree delle economie avanzate. Da 2.800 miliardi di dollari, stima fatta inizialmente, adesso praticamente il Fondo Monetario Internazionale le ha abbassate di mezzo, di 500 miliardi di dollari, siamo a 2.300. Tra l'altro i due terzi di queste perdite sono già state iscritte a bilancio a fine del 2009, quindi mancano all'appello circa 700-800 miliardi di dollari nei bilanci delle banche. Ma questa non è una bella notizia. La bella notizia è che rispetto ai 2.800 miliardi di danno stimato si scende a 2.300 miliardi. Ancora il Fondo Monetario Internazionale dice: attenzione, però non basta quello che sto fatto per i rischi sul sistema, occorre mettere maggiori paletti alle attività rischiose, una tassa vera e propria sui rischi finanziari che si prendono le banche d'affari o gli istituti finanziari, e ponderare quella che è la parte di capitale a rischio in una banca, altrimenti rischiamo di tornare a una crisi che abbiamo già conosciuto. E propone il Fondo Monetario Internazionale, nei capitoli sul Global Financial Stability Report, propone delle camere di compensazione per i derivati over the counter, comunque insomma sopra i 600 mila dollari. In questo momento, scusami, in questo momento siamo a un livello dei mercati dei derivati over the counter pari a 600 mila miliardi di dollari. Grecia, la borsa ha chiuso in flessione perché restano i timori, nonostante sia tutta andata sottoscritta l'asta dei bot greci a 1 miliardo e 200 milioni e praticamente meno 2,21% la borsa greca oggi. Gli alti rendimenti infatti sembrano segnalare che le tensioni e le preoccupazioni restino, al 4,5% i rendimenti dei titoli di Stato greci, al 4,85% quelli a 12 mesi. Ultima notizia e poi partiamo con la borsa. Fiat Termini Imerese, ci sono 21 proposte e 14 progetti cantierabili, l'ho detto l'advisor Invitalia durante l'incontro con i vertici Fiat e il Ministero. Sicuramente sono presenti la CAPE dell'imprenditore siciliano Simone Cimino, che abbiamo avuto nostro ospite altre volte, per il progetto della macchina solare, la De Tomaso, il fondo cinese Hong Kong Tai e FenTech per un progetto manifatturiero. La borsa adesso. Facciamo un primo commento e poi andiamo ai titoli dopo le informazioni sul traffico. Monte dei Paschi più 5,6%, Luxottica più 1,6%, Bulgari più 1,5%, Unipol anch'essa più 1,5%, Telecom più 1,20%, Male, Tenaris meno 2,2%, Azimut meno 2%, Fiat meno 1,80%, come Exor l'1,70% lo perdono CIR e Prismian, l'Automatica meno 1,3%, Snam meno 1,2%, Saipem meno 1,2%, Geox meno 1,1% come A2A. Guido Maurino, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Devo dire borse piattine oggi in Europa, ma Monte dei Paschi e Luxottica. Sì, Monte dei Paschi oggi è stato brillante, ha guadagnato il 5,64% con scambi anche molto elevati rispetto alla media. I titoli dell'istituto si sono mossi, spiegano gli operatori, per effetto del roadshow effettuato negli Stati Uniti dal management dell'istituto bancario, e un roadshow in cui appunto sono stati dati alcuni dati sensibili, importanti, come il ritorno del dividendo previsto per quest'anno e anche un 2010 che complessivamente è previsto in crescita. Questo ha riportato attenzione anche da parte degli investitori esteri sul titolo. Per quanto riguarda invece Luxottica, che ha guadagnato l'1,66%, ma anche Bulgari, possiamo fare lo stesso discorso, più 1,52%, e il settore del lusso a mettersi in evidenza dopo i risultati del colosso francese Louis Vuitton, che a Parigi si è mosso molto bene, ha comunicato i dati del primo trimestre del 2010, con vendite che sono cresciute dell'11%, un risultato che è superiore alle attese degli analisti, che stimavano appunto un più 5,7%. Milano, va detto, lo dico a chi ci scrive, è in linea con il resto dell'Europa, lo 0,4 lo perdono anche le altre borse. Fiat ed Exor si tengono meno 1,8% tutte e due. Sì, essendo anche legati i due titoli, entrambi oggi perdono, sostanzialmente perché le indicazioni sulle vendite della prima parte dell'anno sono di un forte calo nel primo trimestre del 2010, ha sottolineato Lorenzo Sistino, che è responsabile di Fiat Auto Automobile, gli ordini sono calati del 40%, anche ad aprile il trend indica un meno 10, meno 20% di immatricolazioni, e i dati sembrano anche confermati dalle cifre di Global Insight, che appunto prevede per il gruppo un calo delle vendite complessivo in Europa dell'1,5% a marzo, quindi insomma questo calo delle vendite che dopo la fine degli incentivi continua a penalizzare sia Fiat che Exor. Allora, avete ragione, state chiedendo cos'è il roadshow, è sbaglio, guarda, una volta c'era una regola qui che purtroppo non sempre riusciamo a rispettare, di evitare qualunque termine inglese, ripeto, chiedo scusa, non ci riusciamo sempre. Roadshow è quando un'azienda, un gruppo va a presentare, può presentare una quotazione in borsa, va a presentarsi insomma alla comunità finanziaria internazionale, fa magari Londra, diciamo New York, Hong Kong, Milano, insomma va a presentarsi agli analisti, ai possibili investitori. Può farlo sia perché vuole quotarsi in borsa, se ancora non c'è, o perché vuole richiedere soldi con un aumento di capitale, ci possono essere tanti motivi, o perché vuole mettere delle obbligazioni, quindi un prestito. Si chiama roadshow perché vai a mostrarti, non per strada, ma insomma in giro. Chiusa la parentesi, prometto che faremo maggiore attenzione ai termini tecnici. Andiamo avanti con i titoli. Oltre a Fiat che tu ricordavi, Tenaris oggi soffre meno 2,2%, Azimut meno 2%, ma veniva anche da rialzi, per cui tranquilli sul titolo. C'è una notizia che riguarda la borsa, ha escluso che la quotazione in borsa di Ansaldo Energia possa arrivare a breve il numero uno di Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini. Andiamo a vedere invece i migliori e peggiori in assoluto. Seat pagina gialla sulle risparmio più 9,3, Basic Net più 5,81, Monte dei Paschi abbiamo già detto, Louis Vuitton più 4,7, Fortis più 4,5, Alcatel Lucent più 4,2. I peggiori: Oli Data meno 3,60, Icon meno 3,2, Renault de Medici meno 2,9%. E poi c'è Telecom Italia. Do ancora qualche titolo e poi ci arriviamo, perché Decir hanno perso l'1,6 come Prismian, l'Automatica l'1,3 come Snam Rete Gas, l'1,1 l'ha perso Saipem e Geox, l'1% A2A, lo 0,90 Generali e Impregilo, lo 0,80 Campari, Autogrill ed Enel. Negativa dello 0,6% anche Eni, Mediolanum e la Popolare di Milano. Bene, invece, oltre ai titoli già ricordati, Telecom Italia più 1,20, Buzzi Unicem più 1%, Pirelli più 0,90, STMicro Electronics più 0,6, come Ansaldo STS, Intesa più 0,3%. Grazie a Guido Maurino, Radio Coris Sole 24 Ore. Adesso parliamo dei conti Telecom Italia. Diffusi oggi, ci sono molte conferme di anticipazioni che abbiamo già visto. La notizia, a mio avviso, così un po' più importante, riguarda proprio questo accantonamento per i costi della vicenda giudiziaria Telecom Sparkle, l'accusa dei PM di aver creato un circuito, il carosello con cui si evadeva l'IVA, si creavano fondi illegali all'estero, e poi c'è anche l'accusa di aver usato questi fondi con l'utilizzo della criminalità organizzata, di averli riciclati. L'utile cala 1,5 miliardi per Telecom Italia nel 2009, il dividendo, questo è nuovo però se non ricordo male, è a 5 centesimi di euro. Franco Bernabei ha detto che il dividendo, che è il numero uno di Telecom Italia, tornerà a essere in crescita dall'anno prossimo e che sono stati raggiunti gli obiettivi di debito e di utili pretasse previsti nel 2009. In calo invece i ricavi tra il 2 e il 3% nel 2010. E poi c'è anche una notizia carina per quello che riguarda il bonus di Franco Bernabé. Spesso parliamo dei compensi dei manager, in questo caso non c'entrano, non è una banca d'affari, però. È aumentato l'anno scorso contro i 2 milioni di euro quasi del 2008, è salito a 3 milioni 430 mila euro più 76% lo stipendio di Franco Bernabé, che ha beneficiato l'anno scorso di un bonus da 1 milione 350 milioni di euro per i risultati raggiunti, e ha ricevuto poi 300 mila euro di benefici non monetari, auto, alloggio, polizze assicurative e via discorrendo. Fermo invece lo stipendio del presidente Gabriele Galateri di Genola, 1.780.000 euro. Antonella Olivieri, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, Antonella, dicevo che la cosa più nuova è di questi dati che tu stessa avevi anticipato in buona parte anche su Sole 24 Ore, è il dividendo, 5 centesimi, e poi insomma questo accantonamento di cui tu hai anticipato anche la montare, 597 milioni di euro, 507, oggi hanno comunicato 97, forse c'è un errore nell'agenzia perché anch'io ho letto 507 di euro per la vicenda Sparkle. Partiamo dal dividendo e poi arriviamo a Sparkle. È in calo, il dividendo è in linea con le aspettative degli analisti, infatti non è stata una sorpresa, la sorpresa più che altro è la politica del dividendo futuro, perché è stato anticipato che tornerà a crescere, e considerato che la riduzione della cedola è stato uno dei motivi del rintracciamento del titolo, un rialzo prospettico del dividendo non può che far bene al titolo, infatti soprattutto all'inizio il titolo Telecom era andato molto bene in borsa con rialzi anche del 3%. E infatti è arrivato fino al 3% e poi ha ritracciato, come si dice in gergo, all'1,2%. Vedo che c'è chi contesta che noi non vogliamo usare termini in inglese. Vabbè, facciamo polemica anche su questo. Non vogliamo usare termini tecnici perché il programma è per tutti ed è di tutti. Se uno vuole programmi molto più tecnici, penso che li possa trovare in giro. Andiamo avanti invece e cerchiamo di far capire anche qui a tutti che cosa vuol dire per Telecom aver messo da parte 507 milioni, cioè mezzo miliardo di euro, per una vicenda estremamente giudiziaria com'è l'inchiesta Sparkle Telecom Italia, cioè Fastweb Sparkle Telecom Italia. Qui c'è un patteggiamento dietro, cioè, insomma, un'azienda perché mette mezzo miliardo di euro da parte? Sì, dunque c'è stata un'inchiesta che è arrivata alla conclusione della fase preliminare e ha evidenziato che c'erano dei fatturati che non erano, diciamo così, reali. Mm-hmm. E sono state quindi anche detratte delle imposte che non sarebbero dovute essere detratte. E la Telecom si era cautelata all'inizio, quando era emersa l'inchiesta, con dei pareri. Con dei pareri? Con dei pareri che confortavano il comportamento tenuto dall'azienda secondo il principio della buona fede. Però, alla luce di quello che è emerso alla conclusione delle indagini preliminari, sarebbe stato difficile, soprattutto rischioso, cercare di difendere a oltranza questa posizione, perché il rischio, in caso di perdita del contenzioso, sarebbe stato quello di far lievitare la bolletta Sparkle fino a 1 miliardo. E in questo caso il mezzo miliardo è la metà del massimo della pena, potrebbe essere rivisto di una cinquantina di milioni, mm-hmm, se il fisco accetterà uno sconto ulteriore. E c'è da dire però che questo importo, il costo della vicenda Sparkle equivale al valore più o meno della quota in Argentina, quindi è rilevante. Che è una vicenda molto, cioè è pari al valore che ha per il gruppo Telecom la quota posseduta in Argentina, è un valore rilevantissimo. Tu hai chiarito bene che rischiamo di pagare 1 miliardo e quindi preferiscono patteggiare, come avviene anche per i privati cittadini, una cifra più bassa, ammettendo di fatto una responsabilità, anche se da un punto di vista giuridico non si potrebbe dire così. Grazie, Antonio Olivieri, il GR. E poi gli altri temi di questa puntata, 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Un rapido riassunto delle notizie principali uscite nell'ultima ora, quelle della giornata le abbiamo già date. Ricordo da un lato il miglioramento della stima sul danno, su quanto costerà alle banche mondiali dei paesi sviluppati la crisi finanziaria, lo ha fatto poco fa il Fondo Monetario Internazionale, abbassando da 2.800 miliardi di dollari a 2.300 miliardi di dollari il costo della crisi internazionale per il sistema bancario delle economie più avanzate, un miglioramento insomma di 500 miliardi di dollari. Due terzi di questi 2.300 miliardi, dice il Fondo Monetario Internazionale, sono già stati iscritti a bilancio, cioè le banche li hanno già messi nei loro bilanci. Mancano all'appello 7/800 miliardi di dollari da mettere a bilancio, immagino, nel 2010. Ancora sui conti pubblici italiani, volete sapere dell'asta dei bot greci? È andata bene l'asta, tutta sottoscritta, con richieste anche superiori all'offerta, però la borsa di Atene ha chiuso male meno 2,2%, perché è stato valutato particolarmente alto anche il livello dei rendimenti, al 4,55% per i titoli a 26 settimane, al 4,85% per i titoli a un anno, 1,2 miliardi offerto. Ancora di Telecom non possiamo riparlare, abbiamo appena parlato, in una giornata in cui la borsa ha chiuso in leggero calo 0,4 a Milano, ma anche a Parigi, a Francoforte e a Londra un po' meglio, meno 0,2%, l'America adesso è in parità, non è più in negativo, l'euro a quota 1,3590 sul dollaro. Dicevo dei conti pubblici italiani, nei primi 2 mesi dell'anno c'è stato un calo nelle entrate fiscali dell'1,4%, un mancato gettito, cioè un gettito in meno per 800 milioni di euro, per complessivi quindi 56 miliardi e 280 milioni di euro. 800 milioni in meno come conseguenza ancora della difficoltà dell'economia e quindi del gettito, da quello che capiamo dell'IVA. Bene, gli incassi della lotta all'evasione più 39,6%. Ultimo dato, quello che riguarda Fiat e Termini Imerese, sono 21 le proposte, 14 i progetti cantierabili, non si conoscono i nomi delle quattro società. Oggi c'è stato l'incontro al Ministero dell'Economia anche con i vertici Fiat, si conoscono solo quelli di CAPE, quindi Simone Cimino, col progetto della macchina solare, l'ha detto Maso, quello altro progetto, il fondo cinese Hong Kong Tai nell'automotive e Fentech per un progetto manifatturiero. Volevate sapere del perché diamo importanza alle dichiarazioni del neo presidente della Regione Veneto Zaia e ministro dell'Agricoltura sulla vicenda Unicredit? Zaia oggi ha detto infatti: la fiducia che ho avuto in Alessandro Profumo è ben riposta, lo aveva detto la prima volta 2 settimane fa ai nostri microfoni. No, guardi, io tra l'altro ho molta stima del dottor Profumo e va riconosciuta la sua grande attività, la sua grande ovviamente azione per il sistema di credito italiano e quindi anche internazionale. Dico solo che vediamo con chiarezza che le banche del territorio, penso alle banche di credito cooperativo, penso alle banche popolari e anche Unicredit piuttosto che Intesa San Paolo, insomma tutto quello che c'è sul panorama, sul mercato, sono sempre più attive, proattive, vicino ai nostri imprenditori, se hanno le radici ben profonde, ben ancorate sul territorio. Le faccio un esempio che può rappresentare una banalità, ma dà l'idea. Un bene fondi per un imprenditore fatto con una telefonata a persone che conoscono l'imprenditore sul territorio ha un senso. Far girare una telefonata e farla arrivare, che so, alle Isole Vergini o in qualche paradiso fiscale per avere la risposta da qualche giorno significa sapere già che il nostro tessuto sociale, che è della piccola e media impresa, che è un tessuto sociale dove conta molto il saper fare degli imprenditori, dove comunque conta l'ingegnosità di questi personaggi, ovviamente però escono dagli schemi dei computer, dei software complessi dei multinazionali. Così appunto Luca Zaia 2 settimane fa, oggi ha detto appunto la fiducia che ho in Alessandro Profumo è ben riposta. Ringrazio Profumo per i tanti veneti inseriti nel consiglio di amministrazione, perché la banca più è locale più ci piace, significa avere radici sul territorio. Mi aspetto, ha proseguito Zaia, ulteriori passi avanti, perché la partita del credito con le migliaia di aziende che attendono è cruciale. È ideale, ha concluso, anche il nome del nuovo country manager designato in Gabriele Piccini. Questo nel giorno in cui appunto il CDA di Unicredit ha esaminato il progetto di banca unica. Allora, a nostro avviso ha ragione chi dice: va bene le banche sul territorio, ma non torniamo alle banche piccole locali di una volta, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Avete ragione, c'era una logica, e come se c'era nell'aumento delle dimensioni dei gruppi bancari che portò alla creazione di Unicredit, di Intesa San Paolo, del Banco Popolare, giusto per citare, di UbiBanca, per citare i casi più noti. Insomma, cerchiamo di avere banche legate al territorio senza che diventino di nuovo piccole banche territoriali, mettiamola così. E ancora per quello che riguarda i temi della banca del territorio, è certo che le regioni, attraverso anche lo strumento delle fondazioni, vogliono far pesare il proprio ruolo, e la Lega, inutile nascondersi dietro un dito, su questo, da quello che capiamo, interverrà anche nei prossimi mesi. Vorrei passare all'economia italiana, perché se dopo il traffico ci occuperemo del settore del legno arredo, perché domani apre fino al 19 aprile la 49esima edizione del Salone del Mobile, oggi c'è un dato che ci ha particolarmente incuriosito, diffuso dal Centro Studi di Confindustria. Nel 2015 ci saranno 123 milioni di ricchi in più rispetto al 2009, 123 milioni in più di ricchi, un terzo dei quali, quindi a spanne 40 milioni di nuovi ricchi, verrà dalla sola Cina. È emerso dalla ricerca Esportare la dolce vita, realizzata dal Centro Studi di Confindustria, Prometeia e Sace. In 5 anni il 75%, cioè 2/3, quindi arriviamo a praticamente 80-90 milioni di nuovi ricchi in più, sarà generato dalle economie emergenti. Questo è particolarmente importante per un paese che del lusso ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. Noi vendiamo lusso, design, stile a tutto il mondo, inutile continuare a ripeterlo. Dovremmo stare attenti a dove vanno a crearsi i nuovi ricchi, le nuove tendenze, i nuovi stili di vita. Tra l'altro il Made in Italy accessibile, quindi quella produzione di fascia medio-alta ma non di lusso vero e proprio, rappresenta il 14% del nostro export, e ad assorbire questi prodotti di fascia alta ma non lusso, quindi non inaccessibili alla maggior parte della popolazione, sono soprattutto i paesi emergenti. Nel 2015 l'importazione da parte di questi paesi, realizzati con materiali e design di alta qualità in Italia, varrà 13 miliardi di euro, 3 miliardi e 8 in più rispetto al 2009. Presidente Carlo Guglielmi, presidente del COSMIT, quindi chi organizza la Salone del Mobile, buonasera. Buonasera. Ha sentito? Ho sentito, una bella notizia. Beh, sì, perché insomma speriamo di essere noi a vendere il Made in Italy, alimentare, soprattutto abbigliamento, a legno arredo, l'automazione qui conta meno, ai nuovi ricchi, a questi 123 milioni di nuovi ricchi nel mondo. Sarebbe una grossa boccata d'ossigeno per il Made in Italy. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. ...2542 espositori, di cui 400 quasi dall'estero, 200.000 metri quadrati di superficie, 300.000 visitatori attesi e quasi 20.000 novità. Questi sono i numeri della 49esima edizione del Salone Internazionale del Mobile, che domani si apre a Milano fino al 19 aprile. Poi si affiancheranno quest'anno anche le biennali Eurocucina, Salone Internazionale del Bagno, il Salone Satellite, Technology for the Kitchen, e poi tutto il dopo salone e fuori salone che coinvolge l'intera città di Milano. Allora, presidente Guglielmi, lei che come COSMIT organizza il salone è un successo, è l'evento più importante, avete superato anche la moda a Milano quanto capacità di essere l'evento, e complimenti. I dati del settore però sono dati difficili. Un settore che ha 400.000 addetti e 73.000 imprese, ne ha viste di imprese chiudere 1.800 nel 2009 e uscire 12.700 dipendenti. Il fatturato del settore legno arredo ha fatto meno 18%, vale comunque 32 miliardi di euro. L'export ha fatto meno 22%, di cui soprattutto in calo America meno 32%, Gran Bretagna meno 33%, Spagna meno 33%, Grecia meno 20%, Russia meno 34%, Emirati Arabi meno 31%. Per fortuna è calato anche le importazioni di legno arredo, quindi il saldo resta positivo per 6 miliardi, ma insomma meno 24% anche lì. I consumi italiani non ci sono, meno 17%. Allora, il pacchetto incentivi, che vale soprattutto per la cucina, quanto vi potrà aiutare su questo? Prima domanda. Seconda domanda: da dove vedete arrivare i segnali più interessanti nei confronti dell'export? Ma intanto gli incentivi sì, valgono solo per la cucina, come ha ricordato lei, e quindi valgono poco, perché l'entità che è stata stanziata non è certamente una cosa clamorosa. In ogni caso noi siamo convinti che non è che con gli incentivi risolviamo qualche problema, possiamo risolvere il problema sul nostro territorio, nella nostra nazione, soltanto con una riforma fiscale forte, poche aliquote e tutte più basse di quelle attuali. Questo creerebbe soldi, denaro in mano ai possibili consumatori e quindi nuovi acquisti. Dal punto di vista dei segnali, i segnali arrivano ancora una volta dagli Stati Uniti, dove iniziano a esserci richieste nuove di preventivi, di contract, di forniture, quindi lì evidentemente c'è qualcosa che si muove ed è interessante. Altri segnali arrivano dai paesi asiatici. Nel collegamento precedente lei ha ricordato il numero di nuovi ricchi, in effetti non soltanto dalla Cina ma anche dall'India, dalla Corea, dalla Thailandia ci sono segnali positivi che fanno sperare nel futuro. Dall'America e quindi dall'Asia i segnali più interessanti. Notate qualche movimento anche dagli Emirati Arabi Uniti, che sono un mercato fondamentale per il nostro settore del mobile, e che con un petrolio 83, 84, 85 dollari potrebbero tornare a comprare, anche se la vicina di Dubai ha pesato molto su tutti gli Emirati. Certamente, qualche segnale c'è anche lì, insisto, non tanto per il consumo quanto per le forniture. Le forniture intendiamo le forniture per alberghi, per complessi residenziali, per quindi non tanto per il privato ma per queste forniture. Qualche segnale, qualche richiesta in più di preventivi, di offerte, e effettivamente c'è, e questo è un altro dei motivi per cui certo. Speriamo e speriamo che nel salone si possano confermare. Allora, veniamo anche a alcune criticità, perché il mio compito non è solo di elogiare, anzi. Voi siete un settore importantissimo, però avete le debolezze che hanno altri settori produttivi di questo paese. Siamo reduci dal vinitali, è facile fare l'esempio col mondo del vino. Troppi produttori, filiere troppo lunghe, poca capacità di fare massa critica, di avere un peso grosso e quindi di imporsi anche sulla distribuzione. Anche voi avete una marea di migliaia di produttori, ma veramente migliaia, solo pochi sono nomi conosciuti che insomma, possono viaggiare solo col loro marchio, e abbiamo anche in Italia una distribuzione molto molto parcellizzata, cioè distribuzione per voi vuol dire insomma chi ha i negozi di arredo. Le chiedo, si riesce a trovare una forma di accordo tra produttore e distributore in modo da rendere questa filiera un po' più corta e anche più compatta? Siete stati così bravi, come dice Aldo Bonomi, nell'auto a rappresentarvi come mondo con questo salone, a creare un'identità quasi sociologica, perché non fate un passo ulteriore verso forme di rete, aggregazioni, insomma di sistema? Perché se no è difficile poi contestare l'IKEA, così vengo subito al punto, se non si hanno mai le dimensioni sufficienti per fare concorrenza. Ma guardi, quello che ha detto lei è tutto vero, è anche vero che questa formula di aziende non tanto grandi, piccole, con una forte connotazione familiare, con un grandissimo legame tra imprenditori e operai, è quello che ha consentito anche a questo sistema in un momento così difficile di reggere. Ci mancherebbe. E questo va evidentemente considerato. Dopodiché la possibilità di aggregazioni è una cosa certamente interessante, tenga conto però, date le premesse, che è sempre difficile per imprenditori che hanno cresciuto la propria azienda all'interno di un nucleo familiare il pensare per aggregarsi di dover rinunciare a una leadership, che non significa soltanto potere, ma significa anche dare un imprinting preciso alla propria azienda, alla propria dimensione. No, mi scusi, ma è un problema culturale o economico? Cioè voglio dire, se voi ritenete che con queste dimensioni non ci siano problemi, può anche essere vero. Io ritengo che non si possa fare solo nicchia nel mondo, si debbano fare anche i volumi, però no, può essere anche... Dice è vero, e pertanto io penso che sia più un problema culturale che un problema di tipo economico, non c'è dubbio. Per quanto riguarda l'IKEA, il discorso di... voglio dire che noi non ci permettiamo di rilevare ad IKEA alcunché di difetto dal punto di vista distributivo, diciamo semplicemente che tanta parte della loro produzione è quantomeno ispirata dalla produzione delle migliori aziende italiane. Questo però è il processo che ha la moda con Zara e H&M, se mi passa il paragone, cioè è chiaro che quando tu hai delle dimensioni e tanti punti vendita, è difficilmente accettabile una cosa del genere, perché so quanti investimenti, quanti sacrifici, quanto impegno le aziende italiane mettono per innovare, per fare ricerca, per proporre prodotti nuovi. E il proporre prodotti nuovi significa non proporre soltanto prodotti di successo, ma tra tanti prodotti trovarne qualcuno di successo. Purtroppo i prodotti poi imitati sono solo quelli di successo, quando però gli investimenti, le ricerche, il rischio è stato corso da altri. Comunque no, grazie, anche perché io ritengo che poi questa crisi possa portare dei vantaggi nel così stimolare chi magari poteva essere seduto a cercare nuove forme di integrazione. Lo dico anche a chi scrive, non è necessariamente vendere, acquisire o fare joint venture, ci possono essere delle aggregazioni anche di rete, di filiera, di distretto. Ci stanno ragionando le varie associazioni di categoria, Confindustria in primis, ma anche la Confcommercio. Io intanto le faccio in bocca al lupo, anche se ne avete poco bisogno, perché il salone è da sempre un successo, e quindi ben venga, però insomma non si buttano via neanche in bocca al lupo. Grazie a Carlo Guglielmi. Grazie lupo, grazie, e venite al salone perché oltretutto ci si diverte. Sì, anche fuori salone, certo. Anche dopo salone, se posso dire. Grazie ancora, presidente del Cosmit Carlo Guglielmi. Allora, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Vedo che anche molti tassisti confermano che c'è pieno di belle persone al Salone del Mobile di Milano. Grazie e buona serata da Sebastiano Barisoni. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.